L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parliamo del Festival per la Terra che si è tenuto a Venezia nel corso della settimana. Un festival che si era dato l'obiettivo di riflettere su nuovi modelli possibili per vivere in maniera sostenibile la nostra terra e il nostro mare, aggiungo io perché di mare parliamo soprattutto in questa prima parte dell'Altro Pianeta, per proporre poi al grande pubblico possibilità di trasformazioni che sono state poste a Venezia tra scienza ed arte. Allora, visto che si parla di mare e poi di ghiacci, comunque sempre legato all'acqua, io ho pensato di richiamare con noi una nostra amica di vecchia data, Maria Sole Bianco, anche se lei è molto giovane, però comunque di vecchia data per Radio 24. E è un'esperta di conservazione ambientale e marina, in particolare presidente di WorldRise, che è una onlus che si occupa per l'appunto di questi temi, quindi benvenuta Maria Sole. Grazie Laura, è un piacere per me essere qui. E ovviamente abbiamo alcuni degli ospiti del Festival per la Terra di Venezia, e il primo di questi ospiti che mi fa molto piacere presentare è Kenneth Weiss, giornalista specializzato in scienza, ambiente e salute, vincitore di un premio Pulitzer statunitense, e ha scritto per il suo giornale diverse serie, tra cui una che è quella sulla quale ci concentriamo oggi, che è Altered Oceans. Welcome Kenneth. Hi, it's a pleasure to be with you. Pleasure for us that you are with us. Dunque, noi abbiamo letto un piccolo estratto di quello di cui lui ha parlato, quindi mi ha fatto molto piacere l'idea di mettervi in contatto, e poi magari appunto vi risentirete ciascuno per i suoi ambiti, avete molte cose sicuramente da comunicarvi, ma anche perché tu, Maria Sole, potevi aiutarci nel condurre un'intervista a Kenneth, proprio per la competenza che hai su questi temi. Quindi io ti ho chiesto di prepararti qualche domanda, ed è quello che adesso facciamo insieme. Esatto, sia competenza che interesse, grande interesse, perché è stata una serie veramente forward looking, come si dice in inglese, visionaria, perché è pubblicata nel 2007 e appunto copriva e copre ancora alcune delle principali impatti che l'uomo sta avendo sui nostri oceani e sulla loro salute, quindi con conseguenze che condizionano la capacità dell'oceano di agire come sistema di supporto alla nostra stessa vita. Proprio per questo, quando consideriamo queste tipologie di problematiche, un fattore importante da considerare è la velocità. Quindi la mia domanda per Kenneth è, proprio considerando il fattore velocità, com'è cambiata la situazione in questi 9 anni? Perché ricordiamo che questa serie è stata pubblicata nel 2007. Purtroppo gli stress sugli oceani stanno continuando. In acqua ci sono sempre più pescherecci, ci sono sempre più relitti e rifiuti galleggianti in mare. E le acque degli oceani stanno diventando sempre più acide perché assorbono sempre più anidride carbonica. In generale possiamo dire che l'impatto dei cambiamenti climatici si sta facendo sentire sempre più. Stando qui a Venezia, mi rendo ben conto anche di quanto il livello delle acque si sta rapidamente innalzando, e questa accelerazione continuerà probabilmente per tutto il secolo. È un pensiero spaventoso. Pensiamo alla minaccia che posti come Venezia vivono. Quindi addirittura è spaventoso per Kenneth, Maria Sole, quello che stiamo vedendo, pensando a città come Venezia, ma non solo, pensando anche a tante popolazioni che sono in aree a rischio. Quando adesso in questi giorni che ad esempio si sta svolgendo la COP22 di Marrakesh, sono quelle che portano avanti un discorso di velocità, rapidità, bisogna intervenire, bisogna fare subito, fermare il riscaldamento globale per avere dei risultati che salvino la loro terra e la loro vita stessa. Un'altra domanda per Kenneth. Noi ne abbiamo parlato molto nel corso degli anni di plastica. Plastica nei mari è uno dei temi che sono stati affrontati in questa serie di Oceani Alterati, Altered Oceans. Sappiamo che in media 8 milioni di tonnellate di plastica entrano negli oceani ogni anno, e tutta la plastica mai prodotta esiste ancora. Quindi quali sono le conseguenze dell'inquinamento della plastica per la fauna marina e la salute umana, così come li ha potuti vedere lui nel corso delle sue ricerche e dei suoi studi? Yeah, I think so. Io credo che gli scienziati stiano solo ora cominciando a ragionare su quelli che possono essere gli effetti a lungo termine della plastica nei mari. Come diceva, ogni pezzo di plastica che è entrato nell'oceano è ancora lì. La plastica non si disgrega. L'unico processo che può subire è quello di spezzettarsi. Questi pezzettini piccoli, lo vediamo quotidianamente a tutti i livelli, vengono ingeriti dagli animali e così questa plastica risale tutta la catena alimentare, con il loro carico di componenti chimici molto pericolosi, ad esempio il PCB, e così alla fine anche gli uomini finiscono con l'ingerire quella plastica. Ti ho sentito annuire, diciamo così, non ti ho sentito dire no? Che era un segno di condivisione rispetto a quello che diceva Kenneth, quindi questa è la preoccupazione. È un problema fondamentale anche perché noi ci consideriamo sempre un po' distaccati da questa cosa qui, no? Prendiamo la plastica, la ingerisci. In realtà, proprio come spiegava bene Kenneth, in mare la plastica acquisisce e assorbe tutti questi agenti chimici, quindi poi quando va nello stomaco del pesce non solo noi non ci mangiamo la plastica perché ovviamente l'interiore le puliamo, però tutti quegli agenti chimici che vengono assorbiti rimangono nei tessuti del pesce, quindi noi ci intossichiamo e rimaniamo positivi a queste sostanze chimiche proprio semplicemente mangiando. Terza domanda che vorremmo porre a Kenneth, parliamo in questo caso di come l'oceano può esserci invece alleato, no? Questo avevamo pensato. Proprio nell'ottica di cambiamenti climatici, come abbiamo visto, no? Quando abbiamo parlato all'inizio di oceani alterati, abbiamo subito pensato ai cambiamenti climatici. E la cosa che spesso abbiamo dato per scontato è che avevamo un grandissimo alleato, che era l'oceano, che è stato il nostro migliore amico, diciamo, nel mitigare quelli che sono poi gli impatti dei cambiamenti climatici. Dopo averlo ignorato, ci siamo resi conto, e parliamo sempre dal 2007 a oggi, che ci sono altre alterazioni, per esempio, come giustamente Kenneth nominava prima, alterazioni tanto importanti quanto critiche come l'acidificazione e il riscaldamento dell'oceano, che ci stanno portando verso un punto di non ritorno. Quindi la mia domanda per Kenneth è proprio: quali sono le conseguenze, soprattutto per noi, per l'essere umano, di questa negligenza e di queste alterazioni? Hai perfettamente ragione. L'oceano potrebbe offrire molti benefici agli esseri umani perché assorbe anidride carbonica che noi mandiamo nell'atmosfera attraverso le nostre attività industriali. Ma tutto questo ha un prezzo, e cioè che gli oceani stanno diventando sempre più acidi, il che è nocivo per molti animali marini, come le ostriche. C'è molta preoccupazione tra gli scienziati perché di questo passo le ostriche non riusciranno nemmeno a costruire il loro guscio a causa dell'acidificazione delle acque, e questo comprometterà la nostra possibilità di avere quei frutti di mare che ci piacciono molto, ma anche la loro sopravvivenza. E poi, come dicevamo, c'è la questione dell'innalzamento del livello dei mari e dell'aumento degli eventi climatici estremi, come tempeste, inondazioni e uragani. What we're seeing with more intensive hurricanes and like severe weather events. Sì, quindi eventi estremi esatto, che saranno sempre più frequenti. Avevo letto che Kenneth aveva coperto i negoziati sul clima dell'anno scorso, della COP21 di Parigi. C'era anch'io, ma non ci conoscevamo, non ci riconosceremo neanche adesso d'altra parte. Direi mi piacerebbe sapere da lui come giudica, diciamo, il progredire di questa negoziazione, e tenuto conto delle elezioni di Donald Trump. Questa è una domanda che si fanno in tanti, scienziati, giornalisti, addetti ai lavori. Il presidente eletto Trump ha perfino twittato che il cambiamento climatico è colpa dei cinesi. Ha anche detto che avrebbe cancellato gli accordi di Parigi. Non è chiaro cosa intenda con questo. Certamente non può cancellare gli accordi, ma può sottrarre l'appoggio degli Stati Uniti, rallentarne il processo. Quello che farà resta un'incognita. Nel corso degli anni ha cambiato spesso idea e non ha mai governato prima. Certo è che a capo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ha nominato una persona che è sempre stata scettica rispetto ai cambiamenti climatici. ed è quell'agenzia che si deve occupare di queste questioni. È un completo cambio di rotta rispetto al governo Obama. È assolutamente vero, però dall'altra parte, proprio per finire con una nota positiva, sappiamo anche che abbiamo a disposizione delle soluzioni, degli strumenti, delle azioni che possiamo prendere. Mi viene da pensare alle aree marine protette. Qual è la speranza vera attraverso questi strumenti per il futuro? Right, I think that's a very interesting phenomenon that's happening that rispetto alle aree marine protette, è un fenomeno molto interessante quello che sta accadendo oggi. A differenza del passato, c'è una sorta di competizione tra presidenti e primi ministri per avere le aree marine protette più grandi possibili. Un punto a cui tengono molto gli scienziati è che proteggendo gli ecosistemi di alcune aree da stress locali, dall'inquinamento ad esempio, allora queste aree contribuiranno a ridurre lo stress globale del pianeta e delle acque del pianeta, ovviamente. Per concludere con una nota positiva, possiamo dire che ci sono molti paesi, come ad esempio lo Sri Lanka, che stanno facendo dei grandissimi sforzi per impiantare nuove foreste sulle loro coste. Foreste che saranno molto importanti per la protezione dagli eventi climatici estremi di cui dicevamo prima, ma anche per la cattura e il sequestro della CO2. Sentiremo sempre più spesso in futuro di esperienze come quella dello Sri Lanka. Si studia anche quale contributo possano dare le alghe in questo campo. Ad esempio in California, tornando alle mie amate ostriche, in alcuni allevamenti si sta sperimentando l'uso di alghe che ci aiutano ad assorbire l'anidride carbonica e consentono alle ostriche di crescere normalmente. Certamente, le azioni che possiamo fare, che sono già in campo e che in futuro vedremo moltiplicarsi, esatto, per la protezione delle coste, per avere quindi dei riscontri immediati, certo, no, sul clima. Maria Sole, io direi che ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione per questa prima parte dedicata esclusivamente agli oceani è terminato. Proseguiamo tra pochissimo con altri ospiti sempre del Festival per la Terra. Thank you very much again. Okay, hopefully that will be helpful. È stato un piacere avere come nostro ospite Kenneth Weiss. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison. Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Usain Bolt si mette in scia. Attenzione che spinge fino in fondo. Ha il record del mondo! Garozzo, e c'è! La stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, seconda parte dell'Altro Pianeta. Continuiamo a parlare del Festival per la Terra che si è tenuto nel corso della settimana a Venezia. Vi presento il nostro nuovo ospite Carlo Barbante, che è il direttore dell'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del CNR e anche un docente della Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuto. Grazie, buongiorno. E sempre con noi in studio c'è Maria Sole Bianco, che come dicevamo prima, la faccio corta Maria Sole, presiede una onlus che si chiama World Rise, che si occupa di protezione e conservazione dell'ambiente marino. E adesso parliamo sempre di acqua, però parliamo più in particolare con il professor Barbante di ghiacci, perché lui è uno dei coordinatori del progetto internazionale intitolato Protecting Ice Memory. E quindi di ghiaccio appunto parliamo. Esatto, sempre di acqua. Sempre di acqua. E naturalmente tutto collegato, perché abbiamo parlato proprio con l'ospite precedente, con Kenneth, di cambiamenti climatici e il loro impatto sugli oceani. Lei si occupa di ghiacciai, è un altro sistema che è fortemente impattato dall'aumento della temperatura. Ci può raccontare un po' di più su quello che sta avvenendo e quali sono le principali conseguenze per il sistema dei ghiacciai derivanti dai cambiamenti climatici? Ma senz'altro, dice molto bene, i ghiacciai sono delle sentinelle del pianeta per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Le temperature nel corso dell'ultimo secolo sono aumentate ufficialmente di circa 0,85 gradi, ma se teniamo conto anche degli ultimi due anni, cioè il 2014-2015 e anche il 2016, che sono i tre anni più caldi praticamente nel corso dell'ultimo secolo, le temperature sono aumentate ancora di più, cioè, oltrepassiamo il grado come livello medio. E ci sono poi delle aree del pianeta, in particolare le zone polari, soprattutto l'Artico e le aree di alta quota, che subiscono un effetto di amplificazione della temperatura, e quindi in queste zone la temperatura è salita ancora maggiormente. E questo si riflette naturalmente in una fusione dei ghiacciai e quindi in una perdita di massa e di volume. E quello che notiamo è naturalmente le lingue glaciali si accorciano in maniera drammatica. Chi di noi è abituato a frequentare la montagna se ne accorge da un anno all'altro, e questo ha degli effetti importanti. Anzitutto si perde una risorsa preziosissima che è l'acqua. Non è tanto per noi diciamo italiani o che viviamo nelle regioni alpine, perché l'acqua, la nostra acqua, l'acqua che beviamo deriva solo in minima parte dai ghiacciai, ma ci sono regioni del pianeta come in Tibet per esempio, o in India, in alcune zone della Cina, che vivono della risorsa acqua che proviene dai ghiacciai. Quando questi ghiacciai saranno fortemente ridotti o addirittura spariranno in certe zone, ci sarà un grossissimo problema di approvvigionamento della risorsa d'acqua. E oltre a questo c'è anche un altro effetto: dove finisce quest'acqua, questo ghiaccio che fonde? È chiaro che finisce in mare e contribuisce in maniera consistente all'innalzamento medio del livello di medio mare. Abbiamo negli ultimi anni un innalzamento di circa 3 mm e mezzo all'anno, più o meno il 50% di questo proviene dalla fusione dei ghiacciai, il resto proviene dall'espansione termica degli oceani, dovuto anche lì all'aumento di temperatura superficiale. Ecco quindi che abbiamo un effetto importante, sia diretto nell'aumento del livello di medio mare, sia anche naturalmente nel fatto che l'acqua, che è una risorsa primaria, verrà via via a mancare in futuro. Oltre alla perdita, professore, della risorsa acqua, il fatto che la vostra ricerca sia stata intitolata Protecting Ice Memory, credo che ci sia anche una perdita di conoscenza nella perdita dei ghiacci. Beh, certamente i ghiacciai contengono delle informazioni formidabili sul clima e sulle condizioni ambientali del passato. Sono come dei libri sostanzialmente, e noi sfogliando le pagine a ritroso andiamo indietro nel tempo e riusciamo appunto a ricostruire per diverse centinaia, addirittura migliaia e centinaia di migliaia d'anni in alcuni posti, le informazioni che conservano al proprio interno. Cioè anno dopo anno, quando la neve cade, intrappola delle particelle di polvere, intrappola i gas al proprio interno e li mantiene, soprattutto in alcune zone del pianeta in cui non abbiamo fusione stagionale, li mantiene per sempre. Quindi abbiamo degli archivi importantissimi che ci descrivono appunto la storia del nostro pianeta. Ci danno informazioni sulla composizione dell'atmosfera, per esempio, per quanto riguarda la composizione dei gas, ma anche degli inquinanti. Se infatti vogliamo mettere in una prospettiva corretta quello che sta succedendo oggi, per esempio per la contaminazione da sostanze organiche piuttosto che da metalli, dobbiamo cercare di capire quali erano i livelli di riferimento prima dell'epoca industriale. Per far questo, siccome ovviamente 200 anni fa nessuno faceva analisi dell'aria e della composizione dell'aria, per far questo utilizziamo quello che noi chiamiamo un proxy, e utilizziamo appunto la neve e il ghiaccio ghiaccio proprio per stabilire quali erano il livello di base, di fondo della composizione dell'atmosfera. Veramente dei testimoni che hanno e che costituiscono un archivio importante per la scienza attuale, ma anche per le generazioni future. Abbiamo anche dei dati allarmanti, per esempio come proprio a casa nostra, come citava, nel ghiacciaio Cold Dome anche del Monte Bianco, no? Dove, come diceva lei prima, forse è uno di quei casi in cui la temperatura è aumentata di circa 1,5-2 gradi in soli 10 anni. Questi sono dati veramente allarmanti, ma che vanno oltre, no, quelle previsioni, cioè siamo andati in 10 anni, esatto. Noi con quel 1,5-2 gradi sono un po' l'obiettivo di Parigi, quello da non superare in Parigi. Naturalmente qua abbiamo dei sistemi, come ci raccontava il professore prima, che magari subiscono in primis questi impatti, però ci sono anche delle soluzioni, no, che possiamo adottare per fermare questa scomparsa dei ghiacciai? Ci sono? Allora, intanto quando si parla di 1,5-2 gradi in soli 10 anni per quanto riguarda il ghiacciaio del Col du Dom, si riferisce proprio alla temperatura del ghiacciaio, non tanto alla temperatura dell'aria o quant'altro. Quindi, ed è allarmante questo, perché naturalmente se il ghiaccio comincia a salire di temperatura di 1,5-2 gradi rispetto a quella di soli 10 anni fa, vuol dire che sta andando verso una fase futura di fusione. Tant'è che esistono dei modelli climatici che ci dicono, che prevedono che entro il 2100, quindi la fine di questo secolo, praticamente per i ghiacciai delle Alpi, che sono al di sotto dei 3500 metri, non ci saranno più. Quindi non è che possiamo fare tanto per fermare il trend attuale. Ci sono in alcune stazioni sciistiche, per esempio, mettono dei teli per limitare la fusione superficiale. È chiaro che questo è un intervento locale, ma non è sostenibile a livello globale. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di cercare di mitigare, di mettere in essere delle procedure di mitigazione dei cambiamenti climatici, per esempio attraverso la diminuzione delle emissioni di gas serra. I risultati non li vedremo domani, però è chiaro che il trend attuale, che ha delle emissioni dell'ordine di 10 miliardi di tonnellate all'anno di carbone equivalente, non è sicuramente sostenibile. E se continuiamo lungo questa traiettoria mi riferisco alle emissioni via via che si accumulano nell'atmosfera, è chiaro che il target di 2 gradi, quello fissato dagli accordi di Parigi, verrà raggiunto molto molto prima di quanto previsto. Purtroppo sì. Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, spero ci saranno altre occasioni, oltre a quella del festival di questa settimana, per sentirci approfondire questi argomenti. Grazie, buon lavoro, grazie, buona ricerca, buon tutto. Grazie, buongiorno. Arrivederci. E grazie anche a Maria Sole Bianco, che è stata con noi oggi, che ci ha aiutato, che ci ha dato supporto e che ha sempre un sorriso per tutti. Grazie Laura, un piacere. A ritrovarci, alla prossima. Grazie, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, l'altropianeta@radio24.it.